Forse mi conoscete di nome. Io vivevo in un tempo che fu. Conoscete la mia posizione. Niente meno papà di Gesù. Mi ricordo 2000 anni fa. Una bella bottega io avevo. Lavoravo col cuore e il sorriso. E felice e contento io ero. Poi un giorno conobbi una donna che era bella e mi disse: Giuse, molla tutto e vieni di appresso, c'ho una bella sorpresa per te. Io figurati quanto bramavo di sfiorare quelle gote sì belle. Quindi presi la giacca e mollai tutto là e con lei mi diressi a Betlemme. Sono passati il fior fior di millenni, però ancora mi chiedo perché. Ho lasciato laggiù la mia vita, però non son poi tanto fiero di me. Quella donna sì bella e graziosa, non tradì la sua verginità. Né di me né di altri fu sposa, ma allora qualcuno mi spieghi perché. Di lì a poco a miracol mostrare una creatura con lei generò. Tutti dissero: Peppe, non devi essere triste, è l'angelo il suo papà. Sì, ma allora perché io sto qua? Che tra l'altro c'avevo da fa. Ho lasciato una moglie e tre figli in bottega per una che manco la dà. Poi tra l'altro neanche da dire che la fama mi ha preso con sé. Mentre lei e il suo bimbo famosi ora sono, a me restano solo i bignè.